versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, sono le 16.37, 10 secondi, cominciamo sempre più tardi, vabbè, viva la pubblicità. Andiamo subito al punto del giorno, va, che abbiamo pochi minuti. Oggi era una giornata nella quale, diciamo, l'agenda politica era incentrata su la Corte Costituzionale, perché era chiamata a pronunciarsi su l'incostituzionalità o meno della legge elettorale, il famoso porcellum con le liste bloccate, quindi parlamentari scelti dai capi dei partiti e con questo premio di maggioranza diverso tra Camera e Senato che rende una lotteria ogni tipo di consultazione, visto che i premi sono diversi su base regionale al Senato, su base nazionale alla Camera e, come abbiamo visto negli anni, i risultati sono imprevedibili, non garantiscono la governabilità, portano a governi pasticciati, a coalizioni in cui si cambia di segno, eccetera, eccetera. I giornali si erano molto interrogati sulle diverse possibilità aperte alla Corte Costituzionale, alcuni costituzionalisti, la minoranza, erano dell'idea che la Corte dovesse pronunciarsi per l'inammissibilità del ricorso, lasciare al Parlamento, altri dicevano invece no, vedrete che abrogheranno il doppio premio diverso tra Camera e Senato, altri dicevano non si limiteranno a questo ma anche le liste bloccate, e c'era tutto un fiorire di ipotesi su che cosa ne sarebbe nato poi per effetto della sentenza della Corte, che come sapete sono diverso tipo, interpretative, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la Corte, secondo alcuni, addirittura avrebbe dettato al Parlamento il tipo di legge elettorale. Ieri, non a caso, la riforma si era arenata e i partiti di maggioranza avevano innalzato bandiera bianca, come del resto avveniva anche per l'abrogazione, o meglio, per la trasformazione delle province nel disegno di legge Delrio. Se non che stamattina, sorpresa, perché secondo un trend che prende piede da tempo con questo governo, quello del rinvio, la Corte Costituzionale, per non cavare le castagne dal fuoco, ha deciso di prendersi tempo fino al 14 gennaio. Nel frattempo, sapete anche, Napolitano si è finalmente deciso a rimandare in Parlamento Letta per una fiducia, verrà l'11, visto che è cambiata la compagine di governo, e oggi tutti a interrogarsi su cosa significhi questo prendere altro tempo. Per capire come, se questo cambia l'agenda, mentre questo fine settimana ci saranno le primarie, PD, eccetera, eccetera, lo sapete, Renzi e così via, rispetto a Letta, un po' indispettito da Renzi, abbiamo deciso oggi di farci dare l'opinione da un giornalista di cui ho molta stima, che è il direttore del fattoquotidiano.it, cioè la versione online, Peter Gomez. E prima di ringraziarlo e di salutarlo per essere qui con noi, dico a chi è in ascolto che quando avete dei dubbi su giornalisti capaci di fare il loro mestiere anche all'interno delle cose che riguardano la casta dei giornalisti, andatevi a vedere oggi sul sito del Fatto Quotidiano la risposta che Peter Gomez dà a un arrabbiatissimo presidente dell'ente di previdenza dei giornalisti che non sopportava gli articoli pubblicati sui suoi emolumenti, e vedrete con quale civiltà Peter Gomez dice: no, noi abbiamo il diritto di farti le pulci in tasca, tu avresti il diritto di rispondere che facciamo un attacco se non parlassimo di numeri concreti, ma i numeri sono questi, e che tu sia dell'Inpci per noi giornalisti non fa alcuna differenza. Viva questo tipo di mestiere del giornalismo, secondo me. Grazie a Peter di essere con noi. Grazie a te, Oscar, troppo buono. Camporese, presidente dell'Inpci, guadagna 200.000 euro, giustamente, gli sono fatti i conti in tasca, come a tutti quelli che guadagnano un po' troppo, per un incarico a cui si va per elettivo, che non dovrebbe essere retribuito. Magari nemmeno troppo, ma comunque che lo si sappia, la casa dei giornalisti, giornalisti e gli altri italiani, è giusto che sappiano quanto guadagna e come... Peter, sei sorpreso da questa decisione della Corte che pia tempo? No, la Corte Costituzionale è un organo che sicuramente nessuno di noi si può permettere di discutere, ma di fatto prende anche delle scelte politiche. Rimandando tutto al 14 gennaio dà un po' di fiato alla maggioranza e al Parlamento, cioè permette di far sì che si passi parte al congresso del PD, che venga eletto prevedibilmente Renzi, che si mettano un pochino d'accordo su che programma presentare e che nel frattempo magari alla Camera, dove i renziani sono più forti, cerchino di mettere in piedi un legge elettorale, un simulacro. Tutto questo li fa, favorisce, allontana le elezioni e ci porta a elezioni quasi certe del 2015, perché insomma, non essendo, finché non c'è la legge, è pressoché sicuro che non si va a votare. Ma secondo te Renzi ce la fa a reggere fino al 2015? Perché le cose che chiede, il tono che chiede, la discontinuità, io devo dire che lo capisco, questo governo, insomma, diciamo, basta vedere l'IMU, ma tutto il resto è una delusione, un rinvio, capisco che lui dica cambia marcia, ma se questi non cambiano marcia ce la fanno così a reggere secondo te? Io penso di sì, perché una volta arrivati al semestre europeo, insomma non manca molto, mancano 6 mesi sostanzialmente, con eventuale presidenza Letta, insomma se scavalla gli ultimi 2 mesi ovviamente nessuno oserà di far cadere Letta. Renzi però rischia di diventare molto debole, perché se questo governo continuerà a fare poco, ed è probabile che continui a fare poco, a meno che non ci stupisca con effetti speciali durante il semestre di presidenza europea, anche Renzi ne uscirà molto indebolito, perché sarà corresponsabile e sarà difficile lanciare il suo unico vero messaggio forte: io sono il nuovo contro il vecchio. Io ti dirò che quando ho visto la scelta del Capo dello Stato di integrare il collegio della Corte Costituzionale con un altro iperpensionato d'oro, cioè Giuliano Amato, ero convinto che fosse, diciamo, la pensata del Capo dello Stato proprio perché la Corte Costituzionale in materia di legge elettorale non si limitasse, per così dire, a una pronunzia che poi rinviasse al Parlamento, ma insomma ci lavorasse sopra, visto che poi è il mestiere di costituzionalista, uno dei tanti, ma quello originale di Amato. Tu che invece non la pensavi così? No, io la penso esattamente come te, ma è il cosiddetto piano B. Chi naviga in politica da 60 anni come oltre come il nostro presidente generalmente possiede un piano A, un piano B e un piano C. Pensate a quello che è accaduto in occasione della sua rielezione: non voglio essere rieletto, intanto mette giù il programma sostanzialmente di governo Letta, poi non viene eseguito, che è quello dei 10 saggi, e poi si creano le condizioni per la sua rielezione. Potevano anche non crearsi, ma se fossero ricreate lui era già pronto. Senti, voi avete avuto come testata, per così dire, qualche problemino in passato con il Capo dello Stato, per così dire, cioè è diventato un po' scivoloso toccare questo tema, malgrado che il Capo dello Stato, con questa sua rielezione, col discorso che fece in Parlamento, ha incardinato una formula politica e altro che se è attivo. Io devo dire, ricordo a chi è in ascolto, che quando ci fu la raccolta di firme promossa dal Fatto da Marco Travaglio, quando la questione era se il Capo dello Stato dovesse rispondere, ricordate, le intercettazioni e così via, io firmai, e lo dissi pubblicamente anche a questi microfoni, perché non ho l'idea di un Capo dello Stato, soprattutto, per così dire. Ma questo tema del Capo dello Stato, oggi che Napolitano ha dovuto dire a Letta no, va in Parlamento, va, Letta ne avrebbe fatto a meno, si attenua al suo ruolo secondo te oppure no? No, è un ruolo sempre più politico. Allora, visto che lui assume un ruolo politico sempre più forte, e anche a detta di chi lo sostiene, è giusto che possa essere criticato e giudicato dal punto di vista politico. Un eventuale fallimento del governo Letta speriamo di tutti che non avvenga, perché questo corrisponderebbe probabilmente a una ulteriore catastrofe economica per il nostro paese, sarebbe gioco forza il fallimento finale anche di Napolitano. Napolitano poi è un po' permaloso rispetto alle critiche, ma questo secondo me lo si capisce osservando la storia degli uomini, e ciascuno di noi è fatto di quello che siamo stati in passato. Insomma, Napolitano è cambiato nel corso degli anni, ma non dobbiamo dimenticarci che la sua origine nasce nel Partito Comunista, non dobbiamo dimenticarci che Napolitano per tanti anni è stato un togliatterno duro e puro, non ci possiamo dimenticare che nel 1956 elogiò l'Unione Sovietica per aver salvato la pace del mondo con l'invasione dei carri armati a Praga, non possiamo nemmeno dimenticarci l'Ungheria nel 1956. Che più tardi invece, quando incominciò a cambiare legittimamente idea, polemizzò con Berlinguer, nell'unico Berlinguer che a me piace, insomma, nel Berlinguer che denunciava, sia pure per ragioni politiche, il cancro della partitocrazia in Italia, lo strapotere dei partiti. Lì ci fu una forte presa di distanze da parte di Napolitano, una polemica con Berlinguer, come era possibile all'interno del Partito Comunista, quindi non pensiamo una polemica furibonda, e più tardi Napolitano e i suoi miglioristi furono al fianco di Craxi, questa è la nel momento peggiore, esatto, della parabola di Craxi, cioè non il Craxi delle origini che sembrava poter rinnovare questo paese. Ma quello che contendeva alla DC con le stesse regole, anzi in peggio, al maggior sistema della DC, cioè prendere, affondare i soldi nelle aziende pubbliche e mettere nelle tasche del partito di chi ci stava. Sono allora, completamente d'accordo. Allora, tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto tanti errori, però noi siamo osservatori liberi e quando osserviamo una persona che ha commesso tanti errori nella sua vita e alcuni dei quali li ha pure ammessi, ci chiediamo se è diventato molto più anziano, non ci scorre il rischio che gli stessi errori vengano commessi stando sotto una luce che è quella che secondo me ha caratterizzato tutta la sua esistenza. Il fine, ecco, giustifica i mezzi. Il direttore del Fatto Quotidiano.it, siamo partiti da questa sorpresa fino a un certo punto, la decisione della Corte Costituzionale oggi di prendersi un altro abbondante periodo di tempo di riflessione sulla legge elettorale e stiamo riflettendo su come evolvono le cose. L'11 dicembre Letta va in Parlamento per la fiducia, vedremo come le cose cambieranno. Renzi tira un po' la corda, ma ci ha appena detto Peter Gomez, il problema è che per mandare a casa questo governo è molto complicato, perché poi da maggio, fine maggio, inizia il semestre, giugno, il semestre di presidenza europea e sarà molto complicato. Devo alcune risposte a degli ascoltatori prima di tornare a Peter Gomez. Cosa pensi io del dibattito sul punto della patrimoniale dei candidati alle primarie del PD? Ho mandato a Matteo Renzi un tweet pubblico in cui dicevo che non mi sorprendevo perché Cupero fosse a favore della patrimoniale, ma visto che Renzi dice che non è quello il modo, perché bisogna fare altro, lo Stato deve prima dimagrire, non capivo perché lui mantenesse aperta la porta. Quindi io sulla patrimoniale credo che non sia affatto necessaria, la mia tesi resta che la deve pagare lo Stato con quello che ha, visto l'eccesso di debito pubblico che ha fatto. Cosa diversa è oggi rispetto a quello che c'è sul Corriere della Sera sulla conferma dell'iperprogressività del nostro sistema fiscale. Se leggete, c'è il 10% dei contribuenti che paga oltre il 50% dei 152 miliardi di IRPEF. Secondo me anche un cieco capisce che il gradino, quello su cui la sinistra, dico visto che la destra non ha fatto niente, ma la sinistra dovrebbe riflettere, c'è un gradino iperprogressivo troppo ripido tra l'aliquota del 27%, che è quella che riguarda i redditi lordi annui fino a 28.000 euro, quindi stiamo parlando di 13.000 euro netti, e l'aliquota successiva sopra i 28.000 che sale di 11 punti improvvisamente, cioè sale dal 27% al 38% per chi ha neanche 2.000 euro al mese netti. Voi capite bene che quella parete così ripida determina la fine del ceto medio. Questa roba che alla sinistra piaccia, io non riuscirò mai a capirlo, quindi lì bisognerebbe intervenire. Ma torniamo con, questa è la mia opinione, con Peter Gomez. Cosa succede a Renzi se alle primarie non vanno in tanti, secondo te, come tutto sembra immaginare, e se si trova un risultato, certo che non sarà il 70-75% che così tanti si aspettavano. Quanti problemi avrà in un partito dove i casi De Luca sono forse più numerosi di quelli che si vede limitandosi a dire De Luca dimettiti? Renzi avrà due problemi, uno la sua classe dirigente, la classe dirigente del partito, che è una classe dirigente che come tutte le classi dirigenti stenta ad andare a casa, ma l'altro problema sarà grosso nei confronti degli elettori, perché vedete, presentarsi come si è presentato fino adesso, come il rottamatore, quello che vuole spazzare il via al vecchio per sostituirlo al nuovo, e quando tu ti trovi appunto al fianco non solo di De Luca, del quale peraltro credo che abbia poi chiesto le dimissioni da ministro, ma anche dei vari La Torre, dei Fassino, insomma di tutta una serie di rappresentanti che hanno fatto la storia del centro-sinistra, tu avrai due problemi. Uno, gli elettori, che ci sarà gente che incomincerà a chiedersi se davvero fai quello che dici, e l'altro problema grosso saranno le resistenze che tu avrai da questo apparato, che è un apparato decisamente forte. Non sarà semplice, ma questo è il problema di Renzi. Pensate cosa è accaduto sul caso Cancellieri. Secondo me, opportunatamente, Renzi è stato tra i più forti a chiedere le dimissioni del ministro Cancellieri, che si era reso come protagonista di un comportamento fortemente inopportuno. Però al momento in cui bisognava votargli la sfiducia, i suoi la sfiducia non gliel'hanno votata. E allora finisce che l'elettore vede il Movimento 5 Stelle, che sarà certamente populista, che avrà certamente molti difetti, ma che però alla fine della fiera lancia un messaggio semplice: noi facciamo quello che diciamo. A proposito di 5 Stelle e del rapporto che voi in una vostra testata avete con questa cosa, io continuo a pensare come un anno fa, che erano ancora molto bene, non sono di quelli che hanno ironizzato sui pochi, al Vaffadè, eccetera, eccetera, non sono d'accordo su moltissime ricette economiche, ma loro, per esempio, sul bilancio di Camera e Senato, sono stati gli unici che hanno fatto battaglia seria sul bilancio di Camera e Senato, e non solo su quello. Tu come la pensi sull'evolvere di Grillo? Ma io, è più interessante che l'evolvere di Grillo, l'evolvere dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. È indubbio che all'inizio apparivano a tutti una cozzaglia di inesperti, eccetera. A poco, a mio parere, stanno imparando a fare politica. Io lo noto da questo punto di vista come giornalista. Quello che io mi aspetto dalle opposizioni all'interno del Parlamento, che svolgono un'attività di controllo rispetto all'apparato della maggioranza. E se uno guarda i comunicati che il Movimento 5 Stelle incomincia a inviare ai giornali tutti i giorni numerosi, fra tanti comunicati che spesso non interessano, capita molto spesso che loro ti segnalino: guarda, stanno approvando quello strano emendamento. Iniziano guarda a imparare il mestiere. Quello è il mestiere dell'opposizione, è fondamentale per ogni democrazia, che è mancato in questi anni. Perché vedi, io penso che all'interno dei sistemi democratici il primo potere di controllo non spetti né a noi giornalisti né alla magistratura, ma alle opposizioni all'interno delle assemblee elettive. Le opposizioni devono fare il loro mestiere, la maggioranza si comporterà un pochino meno. Pensate a quello che è accaduto in questi anni. Infatti, e del resto di opposizione sui fatti ce ne vuole, visto che appunto province, spending review, IMU, legge elettorale, insomma è molto complicato dire che questo governo è così fondamentale come diceva Napolitano, è molto complicato. Vedremo comunque, per il momento tiriamo innanzi, anche la Corte aiuta a prendere solo tempo, il nostro tempo però è finito oggi e molti di quelli che a casa hanno il tempo finito con le tasse. Continuate con Radio 24, grazie Peter Gomez, a domani!